Il corpo della lettera poteva contenere frasi che si scriverebbero a prima vista soltanto ad un amico, ma non per questo vi sareste potuti vantare d'essere diventati amici di quella signora, giacché la lettera cominciava con «Signore» e finiva con «Vogliate gradire, signore, i miei migliori saluti». Tra quel freddo attacco e quella chiusa glaciale, che cambiavano il senso di tutto il resto, potevano benissimo succedersi, se si trattava della risposta a una vostra lettera di condoglianze, le più toccanti descrizioni del dolore provato dalla Guermantes per la perdita di una sorella, dell'intimità che le aveva legate, della bellezza dei luoghi in cui villeggiava, della consolazione che le davano i suoi incantevoli nipotini. Non era più, comunque, che una lettera come se ne trovano negli epistolari e dal cui carattere intimo non derivava fra voi e la scrivente un'intimità maggiore di quella che avreste potuto avere con Plinio il giovane o con Madame de Simian. È vero che certe Guermantes vi scrivevano sin dalla prima volta «Caro amico, amico mio», non sempre erano le più semplici, ma piuttosto quelle che, vivendo solo in mezzo ai re ed essendo d'altra parte leggere, traevano dal loro orgoglio la certezza che tutto ciò che veniva da loro faceva piacere e dalla loro corruzione l'abitudine di non lesinare nessuna delle soddisfazioni che potevano offrire. Del resto, poiché era sufficiente aver avuto in comune una trisavola sotto Luigi XIII perché un giovane Guermantes, parlando della marchesa di Guermantes, dicesse «la zia Adam». I Guermantes erano così numerosi che anche di quei semplici riti, per esempio il saluto al momento della presentazione, esistevano parecchie varianti. Ogni sottogruppo un po' raffinato aveva il suo, che veniva trasmesso di genitori in figli come una ricetta di vulneraria o un modo particolare di preparare le marmellate. Così abbiamo visto che Saint-Lieu faceva scattare la propria stretta di mano, come suo malgrado, nel momento stesso in cui sentiva il vostro nome, senza partecipazione dello sguardo, senza supplemento vocale. Ogni sventurato plebeo, che per qualche ragione speciale, cosa che d'altronde capitava abbastanza di rado, venisse presentato a un esponente del sottogruppo Saint-Lieu, di fronte a quel minimo e così brusco saluto che esibiva volontariamente i segni dell'involontarietà, si lambiccava il cervello per capire che cosa il o la Guermantes potesse avere contro di lui. Rimaneva di stucco, venendo a sapere che lui o lei aveva ritenuto di dover scrivere appositamente al presentatore per dirgli quanto gli o le foste piaciuto e che si augurava di rivedervi. Non meno personalizzati del gesto meccanico di Saint-Lieu erano i saltelli complicati e veloci, ridicoli a giudizio del signor di Charlieu, del marchese di Fierbois e i passi gravi e misurati del principe di Guermantes. Ma è impossibile qui descrivere la ricchezza di questa coreografia dei Guermantes, data la stessa estensione del corpo di ballo. Per tornare all'antipatia che animava i Courvoisier contro la duchessa di Guermantes, i primi avrebbero potuto prendersi la consolazione di commiserarla quando era ragazza, perché non viveva allora nell'agiatezza. Purtroppo, una sorta d'emanazione fuliginosa e sui generis nascondeva, sottraeva perennemente agli sguardi la ricchezza dei Courvoisier, che, per quanto cospicua, rimaneva oscura. Una Courvoisier molto ricca sposava magari un eccellente partito. Ebbene, invariabilmente succedeva che la giovane coppia non avesse domicilio personale a Parigi, vi scendesse in casa dei suoceri e per il resto dell'anno vivesse in provincia in mezzo a una società senza pecche, ma anche senza smalto. Mentre Saint-Lieu, il quale praticamente non aveva più che debiti, abbagliava Don Sier con i suoi equipaggi, un courvoisier ricchissimo vi girava solo in tram. Inversamente, e d'altronde molti anni prima, Mademoiselle de Guermantes, Oriane, che aveva ben poche sostanze, faceva parlare delle sue toilette più di tutte le courvoisie messe insieme. Lo scandalo stesso delle sue battute faceva una specie di propaganda al suo modo di vestirsi e di acconciarsi. Aveva osato chiedere al Granduca di Russia: «Ditemi, monsignore, è vero che volete far assassinare Tolstoi?» durante un pranzo per il quale i courvoisier, d'altronde poco aggiornati su Tolstoi, non avevano ricevuto alcun invito. Non molto più informati erano sul conto degli autori greci, almeno a giudicare dalla vecchia duchessa di Gagliardon, suocera della principessa di Gagliardon all'epoca ancora ragazza, la quale, non avendo avuto in 5 anni l'onore di una sola visita di Oriane, a qualcuno che le chiedeva il perché della sua assenza rispose: «Pare che reciti Aristotele», voleva dire Aristofane, «in pubblico, roba simile in casa mia non la tollero». Si può immaginare quanto l'uscita di Mademoiselle de Guermantes su Tolstoi, se indignava i courvoisier, mandasse in estasi Guermantes e, di riflesso, tutto il giro che si richiamava a loro, non soltanto da vicino, ma anche da lontano. La vecchia contessa d'Argencourt, nata a Saint-Paul, che riceveva un po' tutti perché era un intellettualoide, sebbene il figlio fosse un terribile snob, era solita riferire la battuta in presenza di letterati, commentando: «Sì, Oriane de Guermantes è fine come l'ambra, maligna come una scimmia dotata per tutto. Fa degli acquarelli degni di un grande pittore e dei versi come ne riescono pochi anche ai grandi poeti. E poi, sapete, come famiglia è il massimo che ci sia. Sua nonna era Mademoiselle de Montpensier e lei è la 18ª Oriane de Guermantes. Non una sola mésalliance. È il sangue più puro, più vecchio di Francia». Così quei falsi letterati, quegli pseudo-intellettuali ricevuti da Madame d'Argencourt, immaginando Oriane de Guermantes, che non avrebbero mai avuto occasione di conoscere personalmente, come qualcosa di più meraviglioso e straordinario della principessa Badr al-Budur, non soltanto si sentivano pronti a morire per lei al pensiero che una persona così nobile onorasse Tolstoi al di sopra di tutto, ma sentivano anche riaccendersi in loro l'amore per Tolstoi e l'opposizione allo zarismo. Le loro idee liberali si erano forse un po' affievolite, erano stati indotti a dubitare del loro prestigio, non avevano più osato professarle. Ed ecco che, all'improvviso, da Mademoiselle de Guermantes in persona, vale a dire da una fanciulla così indiscutibilmente preziosa e qualificata che portava i capelli lisci sulla fronte, come una courvoisier non si sarebbe mai permessa di fare, veniva loro un simile soccorso. Un certo numero di realtà, buone o cattive, traggono sensibili vantaggi dall'adesione di persone che hanno autorità su di noi. Nei courvoisier, per esempio, i riti della cortesia per la strada consistevano in un certo saluto, piuttosto freddo e in sé tutt'altro che cortese, ma di cui si sapeva che era un modo raffinato di dire buongiorno, così che tutti, cancellando cordialità e sorriso, si sforzavano di imitare quella frigida ginnastica. Ma i Guermantes in generale, e Oriane in particolare, pur conoscendo meglio di chiunque altro quei riti, non esitavano, se vi scorgevano da una carrozza, a farvi un cenno gentile con la mano, e in un salotto, lasciando che courvoisier eseguissero i loro saluti goffi e rigidi, abbozzavano incantevoli inchini, vi tendevano la mano, come a un vecchio amico, sorridendo con i loro occhi azzurri, di modo che tutto a un tratto, grazie ai German, entrava nella sostanza dello chic, fino a quel momento un po' vuota e secca, tutto ciò che naturalmente sarebbe piaciuto e che ci si era invece affannati a proscrivere. L'accoglienza, il libero sfogo a una gentilezza vera, la spontaneità. È nello stesso modo, ma attraverso una riabilitazione in questo caso poco giustificata, che le persone più portate istintivamente alla cattiva musica e alle melodie, che, per quanto banali, abbiano qualcosa di facile e carezzevole, giungono, grazie alla cultura sinfonica, a mortificare in sé tale inclinazione. Ma quando, arrivate a questo punto, giustamente sedotte dallo smagliante colorito orchestrale di Richard Strauss, vedono quel musicista accogliere con indulgenza degna di Aubert i motivi più volgari, ciò che amavano un tempo, trova di colpo, in una così alta autorità, una giustificazione che le riempie di gioia e senza più scrupoli e con doppia gratitudine si estasiano ascoltando Salomè di quanto gli era stato proibito amare nei Diamanti della Corona. Autentica o non autentica che fosse, l'apostrofe di Mademoiselle de Guermantes al Granduca, divulgata di casa in casa, offriva lo spunto per raccontare con quale strepitosa eleganza Oriane fosse abbigliata in occasione di quel pranzo. Ma se il lusso, e proprio questo, lo rendeva inaccessibile ai Courvoisier, non nasce dalla ricchezza, bensì dalla prodigalità, resta il fatto che la seconda dura più a lungo, se è sostenuta dalla prima, che le consente di giocare tutte le sue carte. Ora, alla luce dei principi apertamente professati non solo da Oriane, ma anche da Madame de Villeparisis, e cioè che la nobiltà non conta nulla, che preoccuparsi del rango è ridicolo, che il denaro non fa la felicità, che valgono solo l'intelligenza, il cuore, il talento, i Courvoisier potevano sperare che, in virtù di questa educazione ricevuta dalla marchesa, Oriane sposasse un uomo estraneo al gran mondo, un artista, un pregiudicato, uno scalzacani, un libero pensatore, entrando così definitivamente nella categoria di coloro che Courvoisier chiamavano i traviati. Tanto più potevano sperarlo in quanto Madame de Villeparisis, che in quel momento stava attraversando una gravissima crisi dal punto di vista sociale, nessuna delle poche persone brillanti che in seguito incontrai nel suo salotto vi era ancora ritornata, ostentava un profondo disgusto nei confronti della società che la teneva al bando. Persino quando parlava di suo nipote, il principe di Guermantes, che pure frequentava, non si stancava mai di deriderlo perché era maniaco della propria nascita. Ma non appena si era trattato di trovare un marito a Oriane a condurre le operazioni, non erano stati più i principi proclamati dalla zia e dalla nipote, ma il misterioso genio di famiglia. Non meno infallibilmente che se Madame de Villeparisis e Oriane non avessero mai fatto altro che occuparsi di titoli di rendita e di genealogie, anziché di meriti letterari e di qualità morali, e quasi che la marchesa, per qualche giorno, fosse, come sarebbe stata più tardi, morta e sistemata nella sua bara, nella chiesa di Combray, dove ogni membro della famiglia non era più che un Guermantes, con una privazione di individualità e di nomi propri attestata sui grandi paramenti neri dalla solitaria G di porpora sormontata dalla corona ducale, fu sull'uomo più ricco e meglio nato, sul miglior partito del Faubourg Saint-Germain, sul figlio maggiore del duca di Guermantes, il principe de Lhomme, che il genio di famiglia orientò la scelta dell'intellettuale, della spregiudicata, dell'evangelica Madame de Villeparisis. E per 2 ore, il giorno del matrimonio, Madame de Villeparisis intrattenne nel suo salotto tutti i nobili personaggi di cui si faceva beffe, di cui si fece beffe anche quel giorno con i pochi borghesi intimi che aveva invitati e a casa dei quali il principe andò a deporre il suo biglietto da visita prima di interrompere, a partire dall'anno successivo, ogni rapporto. Per portare al colmo l'infelicità dei Courvoisier, le massime secondo le quali l'intelligenza e il talento rappresentano le uniche fonti di superiorità sociale, ricominciarono a circolare nel salotto della principessa de Lhomme subito dopo il matrimonio. E a questo proposito, sia detto di sfuggita, il punto di vista difeso da Saint-Leu quando viveva con Rachel, frequentava gli amici di Rachel, avrebbe voluto sposare Rachel, comportava, a dispetto dell'orrore suscitato in famiglia, meno falsità rispetto a quello delle varie signorine Germain, che esaltavano l'intelligenza e quasi non ammettevano che si mettesse in dubbio l'uguaglianza degli uomini, quando poi, al momento buono, tutto sfociava nello stesso risultato cui sarebbero pervenute professando convinzioni opposte, cioè in un matrimonio con un ricchissimo duca. Saint-Leu, invece, agiva in modo coerente con le sue teorie, il che faceva sì che lo si giudicasse avviato su una cattiva strada. Dal punto di vista morale, certo, Rachel lasciava realmente molto a desiderare, ma non è affatto sicuro che, se si fosse trattato di una persona non migliore, ma nata duchessa e provvista di svariati milioni, Madame de Marsan sarebbe stata contraria al matrimonio.